amassi di galassie. Galassie, amassi di stelle e stelle individuali. Il sistema solare appartiene a una galassia, la Via Lattea, composta di centinaia di miliardi di stelle. Di un piccolo ammasso locale composto di una ventina di altre galassie. È lo stesso integrato in un ammasso più grande, quello della Vergine, che raggruppa parecchie migliaia di galassie. Sono attirate. Si parla di una galassia cannibale.